Il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Oggi vi raccontiamo la storia di un attore, però è un attore che non ha studiato all'Actor Studio, neanche dai grandi maestri del teatro italiano. È un uomo che ha fatto tantissimo teatro, ha recitato in quasi 40 film, film che si ricordano soprattutto per la sua presenza, anche se lui non è mai stato il protagonista. È un uomo che è cresciuto tra le vie di Roma, che quando è nato mai più avrebbe pensato di fare l'attore, eppure è un uomo che molti rimpiangono. Di lui si ricordano i modi di dire, il mitico intercalare e quello z con cui ha conquistato un pubblico di giovani e meno giovani. Il suo nome è Franco Lechner, ma tutti lo conosciamo con il suo nome d'arte, Bombolo. Io abitavo a sto pian terreno qua. Adesso dice che vanno 3 milioni al metro quadro. Quando ci abitavo io ci stavano certi topi così grossi che i gatti quando li vedevano si mettevano a piagne. Qui c'è stata una sede tutte quelle vecchiette carine a fare lana. D'originale c'è rimasta solo sta finestrella. Che io una volta mi è venuto come un atto di dolore che adesso dice che ci abita un miliardario americano. Metta cai qui. Allora lì ci stavano i tavolini con la gente a bere lì di fuori. Metta cai qui, me voglio ammazzare, gliela faccio più. Allora quelli mi rispondono, a Bombolo, vattene all'ultimo piano e buttatete sotto. A chi? In queste poche frasi si trova già l'intero repertorio che ha permesso a Franco Lechner, anzi a Bombolo, ed ora in poi lo chiamiamo così, di diventare uno dei simboli della commedia italiana, magari quella commedia semplice, un po' scollacciata, che gioca sui doppi sensi, su storie di strada, perché i personaggi che lui ha interpretato sono sempre stati il ritratto di porzioni di vita vissuta, di incontri fatti per strada, da un venditore ambulante che un giorno viene notato da qualcuno che fa parte del mondo dello spettacolo e viene convinto a diventare un attore, perché Bombolo per buona parte della sua vita ha fatto proprio l'ambulante, un mestiere imparato da piccolo quando suo fratello fa lo stracciarolo per portare a casa qualche soldo in più e lui va ad aiutarlo. Lui abita nel rione Ponte, che oggi è una zona storica della città, lo diceva lui prima, una zona in cui non è facile trovare un appartamento nelle vecchie case di Roma, e quando Franco nasce, invece siamo nel 1931, in quella zona si va in giro con il carrettino, se qualcuno ha da buttare via qualcosa c'è lì lo stracciarolo che è pronto per fare un affare. Stracciarolo! 5 bottiere da una scopa! 5 bottiere da una scopa! Nel 52 Bombolo ha 21 anni, rimane orfano di padre, coi suoi fratelli deve darsi da fare, così riempie il carrettino di piatti e diventa quello che a Roma si chiama appunto erpiattarolo, va nei magazzini fuori città, acquista piatti e pentole a basso costo e li rivende per le strade di Roma, 6 piatti, 1000 lire, è quello che oggi si definirebbe il marketing. Lui ci pensa in prima persona questo marketing con la sua incontenibile simpatia. Io mo me metto qua, capito? Oh, io me metto qua. E va là, sta attento alle guardie. Guarda bene le guardie! Ce l'avevano tutto e siamo di moto fame. Sei padelle, mille lire! Fallimento! Sei piatti, mille lire! Fallimento! Sei piatti, mille lire! Le padelle, mille lire, fanno 3.500! Attenti ai guardie! Queste mille lire, tutto mille lire! Sono tante le canzoni che si cantano nelle osterie romane. L'oste tira fuori il vino, magari non quello di prima categoria, oppure ci mette l'acqua, come dice appunto una canzone. Però qualcuno inizia a suonare una chitarra, qualcuno parte con una strofa, e così si consumano serate tra amici. Così spesso finiscono le serate di Bombolo, di Franco Lechner, che frequenta un'osteria vicino a casa sua, il Picchiottino. Lì lo conoscono tutti. Tutti vogliono che Franco si esibisca in quello che gli riesce meglio, cioè raccontare le sue storielle e far ridere i presenti. Così Bombolo una sera impersona un pittore francese, un'altra sera un soldato russo, la sera dopo si mette al centro della tavolata con dei monologhi improvvisati e intrattiene il suo pubblico. Oh, vedete questi tubozzi che c'è qui? Mi sono fatti 40 anni fa, quando ero ragazzino. Io abitavo a Ponte, ci sta la piazza d'orologio. Ci stava una Madonna con una pietra alta così. Noi ragazzini ci si buttavamo tutti così. Io per farmi vedere più eroe di loro, per essere più cosato, mi ci sono buttato a capo sotto. Sotto c'era il mio San Pietrini e sono andato a finire un mese che ospitava il Bambino Gesù. A lì mi venite il marnoccolo del teatro. Incontratti Castellacci e Pingitore, mi portate al teatro, dice ti facciamo fare una bella parte. Eh sì, la vita è fatta di incontri. Una sera in questo ristorante al Picchiottino ci sono due persone che stanno bevendo e rimangono incuriositi dalla bravura di questo piattarolo che tutti chiamano Bombolo. I due uomini sono Mario Castellacci e Pierfrancesco Pingitore, due che nel 65 hanno fondato la Compagnia del Bagaglino, due che sono sempre in giro alla caccia di nuovi talenti, e lui viene invitato a esibirsi a teatro per far ridere un pubblico un po' più ampio di quello della sua osteria. Ci hanno visto giusto. A 40 anni suonati si presenta l'occasione che cambia la vita a questo venditore ambulante, che deve il suo nome a una vecchia canzone del trio Lescano. E quindi dalla osteria Il Picchiottino parte la sua avventura, l'avventura di Bombolo, che arriva a fare il cabaret con gente come Oreste Lionello, Leo Gullotta, Martufello, con le ballerine dalle gambe lunghe affusolate. La sua è una comicità schietta, genuina, con la sua faccia sempre sudata, ingabbiata in quella espressione di sconforto e rassegnazione che ottiene l'effetto esattamente contrario. La gente ride anche quando lui non apre bocca, e quando inizia a parlare esce tutta la sua romanità. Questo è il teatro dove lavoro io. Qui ci sta la lapide del grande Ettore Petrolini. Ecco qua. Poi ci ha lavorato pure Aldo Fabrizi. Eppure altri attori che ora non mi ha ricordato. E questo sarebbe il Bagaglino. È del 1858-50, tutti i lampadari di cristallo. Quindi siamo nel 75 e qui dare questo colpo d'ala non è semplice, perché il piattarolo Bombolo, quello che ha fatto ridere sì, ma per vendere i piatti deve cominciare a studiare pagine e pagine di dialoghi da imparare a memoria. Alla fine lui trova la soluzione a modo suo, cioè spesso non ricorda la parte, allora improvvisa, sono gli altri a doverli stare dietro. Però stiamo parlando di grandi professionisti della comicità, quindi alla fine magari c'è qualche arrabbiatura, ma ci sono tante risate. Lui conquista la fiducia del pubblico e quella dei suoi colleghi. Però, malgrado il successo che cresce, lui rimane uno con i piedi per terra. È solo un diversivo questa novità di fare l'attore. Sì, ci sono serate in cui il carrettino con i piatti da vendere è messo in un angolo e dietro le quinte del teatro, appena finito lo spettacolo, lui si mette in strada e continua a vendere la sua mercanzia, cioè non è ancora convinto di poter fare l'attore a tempo pieno e basta, e si tiene il suo strano lavoro. Ma queste quando arrivano? Eccole! Non vedi che pollastri! Ma pappo, e non se famo conoscere! Ne Marie, ne Marie, la sta mamma te vien con me. Beh, questo carrettino prima o poi va messo da parte definitivamente, perché nel frattempo gli impegni si intensificano. Contemporaneamente alle serate al Bagaglino, Pingitore porta Bombolo sul set. C'è da fare Remo e Romolo, spalla a Pippo Franco, e lui supera brillantemente anche questa prova. Da quel momento siamo nel 76, Franco, Lechner in arte, Bombolo è un attore cinematografico professionista. Bruno Corbucci sta girando il primo film di una serie che avrà come protagonista il maresciallo Giraldi, interpretato da Thomas Millian. Bene, Bombolo diventa un delinquente di borgata che tutti chiamano Venticello. Tutta colpa di Gorfia dalla mignotta! Squadra antifurto, squadra antimafia, assassinio sul Tevere, delitto al ristorante cinese sono alcuni dei film che Bombolo recita sotto la regia di Bruno Corbucci. Accanto a lui è il maresciallo Nico Girardi, che viene interpretato da Thomas Millian, e con il quale Bombolo stabilisce un grande rapporto di amicizia. E questo personaggio, Venticello, è il classico delinquente da quattro soldi che si arrangia come può, ma finisce sempre per prendere un sacco di schiaffoni, anzi di sganassoni, come dice lui. La cameriera, arriva sta pizza! La marescia, io ho detto una pizza napoletana. C'hai fame, eh? C'ho fame, sì. Allora mangiate questa, vieni. A merda? Mica ti farà schifo, è roba tua. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh? Sempre merda, eh? Sì, ma la parmigiana. La gag della pizza che diventa un ceffone è un marchio di fabbrica della sua comicità. È una scena nata per caso che avrebbe dovuto essere diversa, ma alla fine, come racconta lo stesso Thomas Millian, diventa la gag che in qualche modo caratterizza la carriera cinematografica di Bombolo. Una volta, quando io ho conosciuto Bombolo per la prima volta, sono arrivato alla trattoria dove dovevamo girare e vedo Bombolo seduto su un tavolo con la forchetta e il coltello, che chiedeva quando arrivano sti spaghetti, quando arriva la matriciana, una cosa così. E l'ho guardato bene e ho detto a Bruno, dico al regista, dico: Bruno, perché invece di chiedere spaghetti a matriciana non lo fai chiedere una pizza? Quando mi arriva sta pizza, quando arriva la pizza, una cosa così, allora io vengo da dietro e le do lo schiaffo. E da lì è piaciuto tanto questo schiaffo, che poi in tutti i film volevano che io, e anche lui mi dice: da mo che non me meni però, E lui sul set interpreta sempre parti, diciamo, di uomini di bassa lega, quelli che normalmente definiamo i cazzari, gli avanzi di galera, quelli che vengono maltrattati da tutti. Bene, nella vita reale invece Franco Lechner, in arte Bombolo, è un marito esemplare, un padre amorevole che prima di tutto pensa alla famiglia, lavora sodo e non smette fino a che non è certo di farcela, di fare il venditore ambulante, perché è convinto che i soldi bisogna guadagnarseli lavorando duramente senza farsi abbagliare dalle luci dei riflettori. Ma ormai il pubblico ride di gusto nelle scene in cui Bombolo è protagonista, anche se coprotagonista, e riesce a far uscire tutta la sua comicità. La sua carriera cinematografica è avviata verso altri successi. Stiamo raccontando la storia di un attore della commedia italiana che ha lavorato al Bagaglino di Roma, recitato in quasi 40 film, e molti lo ricordano nel personaggio di Venticello nella saga di film che hanno come protagonista il maresciallo Nico Girardi, quello interpretato da Thomas Millian, ma anche in tanti altri film, magari un po' pecorecci, e che ognuno di noi comunque, soprattutto quelli della mia generazione, hanno visto almeno una volta. Il vero nome dell'attore è Franco Lechner, ma tutti lo conoscono come Bombolo. Sir Jacob, c'erebbe sta roba che mi date? Ma che c'avete una racchetta per mano? T'ho detto che non devi rubare. Venticello, non ci veni più qui con la roba rubata, mordi voi. Mordi voi a me. Oh! Mica t'ha detto li mortacci tua. Bombolo è un attore per caso, tanto è vero che lui per molto tempo continua a considerare il suo vero lavoro quello del venditore ambulante. Intanto fa film, il teatro, è famoso, però ha sempre paura di tornare alla miseria da cui era partito. trascorrere una giornata sul set comporta a volte dei guadagni inferiori a quello che lui riesce a racimolare con il suo carrettino tra le strade di Roma. Poi arriva il grande cinema, comunque tanto cinema, e in 10 anni di carriera lui lavora con Corbucci, nella saga Ermonnezza, ancora con Thomas Millian, con Pingitore, col quale si divide tra Bagaglino e le commedie, e con Pippo Franco. Questo per esempio è un momento in cui Pippo Franco e Bombolo sono insieme sul set. E per giovani, mandate credito a me. A Piersole, che mo pure il sole è inquinato? È arrivato la cacanne, mo se mette lì se spaparanza, mo sai che sto posto è prenotato da 2 anni. E noi indannamo. Pippo, io sono stanca, sono 5 minuti che non faccio che camminare. Mo voto io il posto. Allora vedo la 4612 e la 4613, due belli posti, l'ultima fila davanti ai cessi. E te pareva? E Pippo Franco è qua con noi a raccontarci qualcosa di più. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a te e a tutti voi, eccoci. Allora, com'è stato per te lavorare con Franco Lechner, con Bombolo? Che compagno di lavoro era? Ma guarda, noi abbiamo messo in scena la vita in realtà. Il primo Bagaglino è nato in una zona di Panico, cioè in una zona che è là dietro Piazza Navona, e conoscevamo alcuni personaggi che giravano in questi ambienti. Lui prima di fare questo mestiere, anzi non faceva affatto questo mestiere, ma vendeva i piatti. Ma la particolarità di Bombolo era che per vendere i piatti magari si metteva pure a piangere, faceva delle scene all'aperto davanti a tutti. E noi che cercavamo persone di questo tipo non ve lo siete fatti scappare. Non ho fatti scappare, ma soprattutto la genialità di Vincitore era molto accorto a questo tipo di cose, che ha avuto il coraggio di metterlo in scena, no? Le prime volte puoi immaginarti prendere uno che vende i piatti e portarlo sulla scena. Ma infatti questo che ti volevo chiedere, tu che insomma hai professionalità da vendere, com'è il passaggio tra una persona, diciamo, che fa ridere in un ristorante inventando, improvvisando, è una persona che deve far ridere con un copione? Cioè c'era molto di improvvisato poi anche nel suo modo di recitare? Nel suo modo di recitare forse sì, ma era sempre se stesso in fondo, certo. No? Ma lui viveva di improvvisazione, ormai l'improvvisazione gli apparteneva, era già delineato il personaggio che lui era e che doveva essere. Lui era semi-analfabeta, non è che fosse, e ci raccontava storie assolutamente straordinarie. La bellezza erano sostanzialmente quelle, e quindi lui non ha fatto altro che trasportare quel personaggio, quel suo modo di essere, quel suo modo di dire, di comunicare, interlocuzione, quel suo balbettio. La cosa difficile è stato appunto fargli imparare a memoria le cose, e quindi insomma è stato impervio tutto sommato. Grazie, un bellissimo ricordo, grazie ancora Pippo Franco, un abbraccio. Grazie a te, ciao, grazie. Beh, Bombolo non era un uomo da cene ufficiali, quando era sul set tendeva a non andare negli alberghi più lussuosi che prenotava la produzione. Si dice che quando era il momento di andare a pranzo lui si andava a sedere con i macchinisti magari più che con i produttori. Insomma, per avere conferma di quanto detto, però vorrei parlare con un grandissimo maestro della commedia teatrale e cinematografica, Pier Francesco Pingitore. Buongiorno maestro. Buongiorno, non mi chiamare maestro, siamoci da tu. Va bene, e cerchiamo, grazie, di fare una cosa un po' meno aulica. Che piacerebbe a Bombo, a Franco Lechner. Appunto, sicuramente. Sai, io ho conosciuto Bombolo, diciamo che l'ho scoperto, se la parola non fosse così abusata, nel senso che quando avevamo il vecchio cabaret nostro nella vecchia Roma, in una strada di malavita che si chiamava via Panico, via Piccola da Campanella, lì vicino c'era un'osteria da Picchiottino dove noi andavamo a mangiare, e lì incontrammo Bombolo. Lui lavorava, diciamo, tutta la mattina, perché era una persona oltretutto onestissima, ecco, questo va chiarito, e alla fine di questa mattinata si radunava, si trovava ospitalità a pagamento ovviamente, in questa osteria, dove si radunavano anche tanti altri personaggi abbastanza singolari. E lì mangiavano, bevevano, facevano delle scenette anche molto divertenti, poi si ubriacavano, poi arrivavano le mogli che le volevano portare via, ma loro si picchiavano con le mogli, poi le mogli cominciavano a bere pure loro. Insomma, la cosa durava fino a verso le 8 o le 9 di sera, dopodiché abbraccicati con le mogli se tornavano a casa. Castellacci lo definì un attore naif. Ma infatti, lui interpretava il papus, no? Quello, il mangione, beone, chiacchierone, eccetera, ma in realtà era una persona che, a parte l'amore per il vino che aveva indubbiamente, però era assolutamente sobrio quando si trattava di lavorare. E un altro comico che lo ha affiancato è stato Enzo Cannavale. Era una coppia che funzionava, cioè con chi Bombolo ha dato il meglio di sé? Cioè, devo dire, la coppia Bombolo-Cannavale non mi ha mai molto convinto, perché erano due mondi che non avevano nulla a che vedere l'uno con l'altro. Cioè, insieme non erano più di quello che Bombolo era da solo e Enzo era da solo. Questo è il mio giudizio, che può essere ovviamente contrastato. Senti, l'ultima domanda. Allora, il caratterista nel cinema ha sempre avuto un ruolo fondamentale, soprattutto nella commedia italiana. E oggi ha ancora senso parlare di caratteristi? E se sì, chi è che può essere, diciamo, e tra virgolette, l'erede di Bombolo? Cioè, ci sono caratteristi che possono avere quelle caratteristiche? Ma io, sai, non ne vedo, sinceramente. Non ne vedo, anche perché è cambiato il panorama della commedia all'italiana. Quando io ho cominciato a fare il cinema, facevamo 300 film l'anno e uscivano tutti. Oggi se ne fanno, credo, una cinquantina e molti non escono. E lì c'erano centinaia di caratteristi. Per io mi viene in mente Mario Carotenuto. Mario Carotenuto era un attore straordinario. Caspita. Ecco, questo tipo di umanità io lo vedo poco oggi nel cinema italiano, sinceramente. Magari a volte con copioni non all'altezza della bravura degli attori, secondo me. Anche secondo me, ma volevo evitare di dirlo. Grazie maestro, sei stato gentilissimo, un abbraccio. Grazie a te, un abbraccio anche a te e tanti complimenti, come sempre, per te. Ciao, arrivederci. La moglie di Franco Lechner si chiama Regina e per lei lui è stato un re affettuoso e protettivo. Tre figli che hanno avuto un padre amorevole ma severo, convinto che l'educazione e il rispetto per il lavoro duro fosse la cosa più importante. È esattamente l'opposto dello scansafatica, disonesto, bugiardo e cialtrone, cioè il personaggio che ha interpretato quasi sempre al cinema. E invece lui, come padre di famiglia, era esattamente il contrario. Queste notizie le abbiamo ricavate da un libro scritto da Ezio Cardarelli, che era un poliziotto prestato al mondo dei libri, spinto dalla sua passione per questo personaggio che ha voluto raccontare la parte meno conosciuta della vita di Franco Lechner. Il libro che ho letto, che lui mi ha mandato, e forse uno dei motivi per cui facciamo questa puntata è proprio quel libro che mi è arrivato, e il libro si chiamava E poi cominciatti a far l'attore. È stato il risultato di una serie di incontri con Regina, con la moglie di Bombolo, che avvenivano sempre tra le 15:30 e le 17:30, insomma, tutti i pomeriggi, quando io potevo. Stavamo con Regina e ci raccontava, lei mi raccontava le cose che poi sono diventate libro. Un libro che nasce anche grazie a Thomas Milian, con il quale Franco ha avuto un rapporto di amicizia quasi fraterno che non si è mai interrotto neanche dopo il 21 agosto 1987, quando Franco Lechner, già indebolito da una meningite che l'aveva colpito un anno prima, muore per un tumore tra le mura di casa sua, dove ha chiesto di poter tornare dopo l'ultimo ricovero in ospedale. È un ricovero pieno di episodi divertenti, come una pentola di spaghetti fatta entrare di nascosto dalla moglie, che è stata distribuita tra tutti, tra malati e personale, con il cane che lo va a trovare in ospedale. Insomma, è veramente un momento in cui Bombolo in ospedale mostra a tutti la sua umanità anche nel dolore. Il giorno del funerale Thomas Milian aspetta il passaggio della bara per fare un ultimo scherzo al suo compagno di avventure. Io ero nascosto perché questa era la sua giornata di gloria, in un certo senso, e non ho voluto farmi vedere, ed ero dietro ad una colonna quando passa la bara davanti a me, come lui voleva che io vedesse gli schiaffi, perché sapeva che funzionavano e non le faceva male, allora alla bara gli ho dato uno schiaffetto da Dio così. E niente, questa è stata l'ultima volta che abbiamo avuto un contatto. Beh, lui ha rappresentato una figura importante nella storia della commedia italiana. Ha preso tanti schiaffi, tante botte per far ridere la gente, però era un caratterista senza il quale molti film non avrebbero avuto il successo che ancora oggi riscuotono anche tra i giovanissimi che magari non erano ancora nati quando Bombolo si prendeva le pizze dal maresciallo Girardi. E a riprova che certi personaggi sono importanti, sentite questa dichiarazione rilasciata a Roma da Eli Roth, che è uno dei protagonisti del film di Quentin Tarantino, uno che il cinema italiano l'ha sempre amato e ha amato molto quel cinema, e il film era Bastardi senza gloria. Ho studiato in una scuola molto speciale che è la scuola di Bombolo. Ho visto tutti i film, da Nerone a Viva la Foca. Ho studiato i più grandi attori della commedia italiana. Bombolo, Alvaro Vitali, Lino Banfi, Lando Buzzanca. Ho visto tutti i film di Edwige Fenech, Gloria Guida, Barbara Boucher. Ho voluto ispirarmi a Bombolo per recitare la mia parte in questo film. Eh beh, una consacrazione postuma che sicuramente il nostro Lechner si meritava. Franco Lechner, in arte Bombolo. Storie di vite straordinarie quelle che abbiamo deciso di raccontarvi. Noi aspettiamo altri vostri consigli scrivendo a ilfalcoilgabbiano@radio24.it oppure venendoci a cercare su tutti i nostri social. Se mi cercate, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.